の中で声が大きい人、それから行動力があって。 Penso che al mondo ci siano due categorie di persone. Ci sono i forti, quelli che parlano sempre a voce alta. Poi ci sono quelli un po' più fragili, che parlano a voce più bassa, che vivono in un mondo che va molto più in profondità e che tende a non venire mai alla luce del sole, e sono anche persone che tendono a soffrire di più. Ed è proprio in un certo senso per consolare queste persone, per far sì che loro stiano un po' meglio, che io scrivo, e questo è il motivo per cui ci sono questi incontri all'interno dei miei romanzi. In un'intervista che avevamo realizzato un paio di anni fa sul romanzo Il Lago, lei mi aveva detto che il tema fondamentale della sua opera non è tanto l'amore, la morte, la perdita, ma la consolazione. Perché insiste sul tema della consolazione? Sono passati 2 anni e in questi 2 anni ho riflettuto ripetutamente a fondo sul significato stesso della parola consolazione, che cos'è la consolazione. Io credo che in fin dei conti la consolazione per ciascuno di noi non sia altro che noi stessi. Siamo noi che dobbiamo consolare noi stessi. Questo, abbiamo detto, è il quarto volume di una tetralogia. Negli altri libri la protagonista era Shinzu Kwishi. In questo caso, appunto, vediamo soprattutto il punto di vista di Noni, di sua figlia. Ecco, dicevamo prima che questa donna ha due padri, cioè figlia di una coppia gay e chiaramente di una donna. Perché ha voluto fare questo accenno a una famiglia, diciamo, allargata, a una famiglia diversa in questo romanzo? Io penso molto semplicemente, ed è soltanto la mia impressione, che noi tendiamo a immaginare la famiglia come composta da un papà, una mamma e dei bambini. Il papà va a lavorare, va tutto benissimo, funziona tutto, la madre cresce i bambini crescono bene, circondati dall'affetto dei genitori. Però in realtà io mi sono resa conto che questa famiglia perfetta non esiste da nessuna parte, posso dire soltanto questo. Ho la sensazione in realtà che ogni famiglia abbia i propri problemi, esistono problemi in tutte le famiglie e non esiste una famiglia perfetta, una famiglia che non ne abbia. E quindi era questo quello che volevo raccontare e ho scelto lo strumento dell'allegoria, un modo un po' esagerato forse per raccontarlo, ho voluto rappresentarlo proprio così, con una famiglia diversa, particolare, però credo che è così che stiano le cose. Lei conosce abbastanza bene l'Italia, la frequenta, conosce la cultura italiana, sia romanzi che il cinema, è un'ammiratrice di Dario Argento. Che idea si è fatta della famiglia come è concepita in Italia e come invece è concepita in Giappone? Ci sono similitudini o differenze? Le famiglie italiane che conosco sono tutte piuttosto uniche e quindi è difficile per me affermare di conoscere la famiglia italiana normale o tradizionale, come dir si voglia. Però c'è un aspetto che ho notato e che mi sembra somigliare alla famiglia giapponese, ed è il fatto che in Italia come in Giappone una volta c'erano molte aziende a conduzione familiare oppure lavori che si passavano di padre in figlio, genitori che lavoravano insieme ai figli. Questo c'era in Italia e c'era in Giappone e mi sembra che è qualcosa che si stia perdendo sia in Italia che in Giappone. Questo è sicuramente un punto in comune. A proposito della sua ammirazione per Dario Argento, ho letto un'intervista in cui lei diceva che nel momento in cui ha visto il primo film di Dario Argento ha capito che c'era qualcuno che riusciva ad avere il suo stesso punto di vista sulla realtà. Che cosa intendeva dire? Quando ero molto giovane ero anche incredibilmente sensibile e introversa io stessa. Mi sembrava sempre che il mondo avesse dei colori particolari, delle tinte particolari e che tutto andasse troppo veloce. E la prima volta che ho visto un film di Dario Argento è stato come se quei colori, quei ritmi che io percepivo dentro di me fossero stati messi all'interno di un contenitore che era che era un film, gli fosse stata data una forma, e quindi ho sentito una forte empatia. Ma quali erano i colori dei film di Dario Argento che l'avevano colpita? Cos'era quello sguardo sulla paura, sull'orrore? Cosa? Dal punto di vista dell'estetica dei film di Dario Argento, c'è un particolare che mi ha sempre attirato molto, e probabilmente non soltanto a me. I colori sono sempre molto accesi all'interno dei suoi film, sono sempre molto forti, molto densi, e mi ha sempre dato l'impressione di essere molto attento alla interiorità. È come se lui raccontasse sempre l'interiorità delle persone, ed è qualcosa che ho voluto riversare anche nei miei romanzi. Ed è vero che i miei sono romanzi, i suoi sono film, quindi c'è una componente visiva molto più forte, e che i miei romanzi sono molto diversi dai suoi film, questo è vero. Però entrambi raccontiamo la dimensione interiore delle persone, non siamo interessati tanto a raccontare la realtà, scegliamo un linguaggio allegorico, un linguaggio in un certo senso astratto, diverso rispetto alla percezione comune che si ha di determinati elementi. A volte stravolgiamo l'ordine delle cose. E un'altra cosa che mi ha sempre colpito molto dei suoi film è il fatto che quando compaiono le luci, soprattutto le luci notturne nelle sue scene, sono sempre luci molto forti, e questo corrobora la mia ipotesi, la mia idea, che lui stia cercando di raccontare l'interiorità delle persone. Nei primi tre volumi di questa tetralogia si vedeva forte il rapporto, il legame fra l'essere umano e la natura, tant'è vero che Shiru Kuishi aveva questo forte legame con la nonna, che era una guaritrice, esperta di piante medicinali e così via. In questo quarto volume il potere della natura è più sullo sfondo. C'è una scena in cui Noni vede la madre che accoglie delle erbe medicinali e pensa che queste possano aiutare suo padre a stare meglio, e dice: sono cresciuta in questa realtà e non mi pongo il problema di credere o non credere a certe cose. È cambiata l'idea del potere magico della natura. Più che una trasformazione del mio modo di pensare, non sono cambiata tanto io, non è cambiato tanto il modo di concepire la natura e di raccontarla nei libri, quanto si tratta più che altro di una trasformazione legata al cambio di personaggio principale. Shizuku Ishii aveva una personalità estremamente forte, era molto decisa, poco propensa a cambiare, era scesa dalla montagna, viveva tutti i suoi problemi, non riusciva a relazionarsi con le persone, non amava la vita in città. Invece Noni è una persona più tranquilla, più accondiscendente, e soprattutto è una persona che ha assimilato il percorso della madre, cioè il percorso che la madre, che Shizuku Ishii, ha svolto tra il primo e il terzo volume, è qualcosa che in modo indiretto Noni ha assimilato, e questo è il motivo per cui Noni non è indifferente alla natura, è in grado di relazionarsi alla natura, però è in grado di relazionarsi tutto sommato anche agli esseri umani, non ha un carattere spigoloso come quello di Shizuku Ishii, e questa credo appunto che sia la differenza fondamentale, e che è una differenza legata al cambio di personaggio. E questa era Banana Yoshimoto, che ci ha parlato del romanzo Another World, ultimo volume della tetralogia Il Regno, pubblicata in Italia da Feltrinelli. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Quanto conosciamo realmente le persone che amiamo e che abbiamo accanto? Su questa domanda si sono interrogati tanti scrittori, e lo fa anche Chiara Marchelli nel romanzo Le notti blu, pubblicato da Giulio Perrone Editore. Il libro era stato selezionato anche fra i 12 candidati per il Premio Strega 2017. Rapidamente la trama: Larissa e Michele sono due italiani ma vivono a New York, sono sposati da oltre 30 anni. Su entrambi pesa un dolore enorme, cioè la morte del figlio Mirko, che si è suicidato. Un giorno la compagna, la vedova di Mirko, Caterina, che vive in Italia, riceve una richiesta di riconoscimento di paternità. Mirko avrebbe infatti avuto una relazione clandestina e avrebbe un figlio. Sconvolta dalla notizia, cerca appoggio nei suoceri. È ovviamente una cosa che turba le vite di Larissa e Michele. Da una parte si riapre una ferita, il suicidio del figlio. Dall'altra però vengono a sapere che forse c'è un nipote di cui non sapevano l'esistenza. Sentiamo Chiara Marchelli. All'inizio hanno due reazioni differenti e opposte. Michele, il padre di Mirko, non ci crede, pensa che sia una sciocchezza, che sia un errore, che si tratti di un'altra persona addirittura. Poi lui non ha mai avuto in grande considerazione Caterina, la nuora, per cui non si fida neanche troppo in realtà. Larissa invece lì per lì è molto colpita, ovviamente entrambi sono molto colpiti, ma è colpita dal fatto che questa lettera ci sia e quindi pensa che Caterina non si sia inventata nulla, che non sia una persona disonesta e decide di procedere, di cercare di capire, parlare con Caterina, procedere in questo senso. Poi piano piano però più vanno avanti, rientrano in Italia, vanno a parlare con lei e ci sarà tutto un movimento in questa direzione. E piano piano le posizioni si capovolgono, perché Michele a quel punto è quello che decide di andare avanti, di abbracciare la possibilità che ci sia questo bambino e quindi un ritorno in superficie, mentre Larissa si confronta con se stessa e quindi capisce, trova, scopre che invece non ce la fa ad aprirsi all'ipotesi che sia stata tradita due volte. La prima volta dal suicidio del figlio, che non le ha mai espresso il suo malessere o la sua depressione, e la seconda volta dal fatto che lui non abbia mai confessato, se questo è vero, di aver avuto un bambino con un'altra donna. Il suicidio è chiaramente fondamentale in questo libro, cioè il fatto che Mirko si sia suicidato ha un'influenza sia nella vita di Caterina che in quella dei genitori. Tu a un certo punto scrivi: mentre Mirko si uccideva, Caterina stava stornando una confezione di biscotti al cioccolato. Questo dà perfettamente l'idea di come la vita, insomma, vada avanti in modo normale mentre sta accadendo qualcosa di terribile che non conosciamo ancora. Ecco, qual è l'atteggiamento di Caterina e dei genitori nei confronti del suicidio di Mirko? Sono completamente disorientati, perché non si rendono conto di aver avuto accanto, come marito e come figlio, una persona che non hanno mai compreso del tutto. Caterina in particolare, perché io penso che i genitori comunque ci conoscano sempre soltanto fino ad un certo punto, e poi comunque Mirko non viveva più con loro da molto tempo, è un uomo adulto, è un uomo di quasi 40 anni quello che si uccide. Caterina penso che abbia subito il colpo più scioccante per lei, perché viveva con quest'uomo e lo accompagnava anche nelle sue irrequietezze. Di questo era straordinariamente consapevole, molto spesso lo vedeva perso con lo sguardo fuori dalla finestra e lei cercava di stargli accanto, di capire come poteva aiutarlo, ed era già consapevole comunque che non c'era modo di raggiungerlo quando lui era così, quando lui stava così. E questo senso di disorientamento per lei diventa una frattura sempre più profonda e non riesce in alcun modo a colmarla, e soprattutto dal momento in cui i suoceri decidono, o perlomeno Michele decide, di proseguire nella ricerca, perché a quel punto si sente completamente abbandonata da tutti. L'idea che a volte non conosciamo le persone che ci stanno accanto è stata già affrontata in letteratura diverse volte da diversi scrittori. Tu però hai voluto sottolinearla due volte. Da un lato con il suicidio, che rimane sempre un mistero per i familiari, e dall'altro con il fatto che Mirko potrebbe aver avuto appunto una relazione segreta dalla quale è nato un figlio. Come mai hai voluto insistere così tanto sull'idea che spesso non conosciamo chi ci sta accanto? Non avevo idea di aver fatto questo percorso, di stare per intraprendere questo percorso in realtà mentre scrivevo, perché quello che mi interessava era partire dal suicidio, ma non parlare del suicidio, tanto che faccio cominciare la storia 5 anni dopo, anche perché non penso di potermelo permettere, penso che ci sia una forma di rispetto e di distanza dovuti nei confronti di una cosa di questo tipo. Ho voluto parlarne, ma mettendo un filtro. perché ci sono appunto dei sentimenti che io non conosco e quindi mi hanno sfiorata, sono stata testimone, ma non li ho provati in prima persona. Ho voluto provare a immaginare che cosa avrebbe provocato l'arrivo di una notizia che necessariamente avrebbe portato l'opposto di quello che era appena successo, cioè l'arrivo di un bambino. E un bambino che cosa rappresenta se non la vita e le nuove possibilità? Questo mi interessava. Poi mi rendo conto a posteriori che si è instaurato poi tutto un meccanismo di cui stiamo parlando in questo momento, che è il fatto di non conoscersi mai veramente profondamente. E io stessa poi, scrivendo verso la fine, mi sono anche resa conto che era entrato necessariamente questo elemento, ma non era un tema che io ero consapevole di stare affrontando. Caterina riceve questa lettera con la richiesta di paternità. Naturalmente all'inizio cercano di capire se sia vera, mettono di mezzo un avvocato e iniziano anche a cambiare i rapporti fra Caterina e i genitori di Mirko. Lo accennavi anche tu prima, Michele non aveva mai avuto grandi rapporti con la nuora, poi sembra scattare un meccanismo quasi di protezione. Ecco, in che modo cambiano questi rapporti fra i tre? Caterina più va avanti, più scopre e meno vuole proseguire in questa scoperta, perché si rende sempre più conto che è vero e quindi ad un certo punto non vuole più saperne niente, vuole chiudere tutto, tanto ormai già l'uomo che amava se n'è andato. In questo modo, proseguendo nel percorso verso la verità, avrebbe perso anche il ricordo, completamente perso anche il ricordo di un marito. E quindi ad un certo punto lei interrompe completamente. A questo punto alla rissa scatta invece un desiderio di protezione nei suoi confronti, perché vuole anche lei smettere per difendere il proprio ricordo, la propria memoria e se stessa, ma lo fa anche solidarizzando forse in qualche modo con Caterina, perché vuole arrestare questa violenza, perché la vede come una violenza nei confronti di se stessa e della nuora. Io penso che mentre per Caterina sia più in un certo senso comprensibile questa reazione, perché le è morto un marito che ha messo al mondo un figlio che non è il suo, per Larissa forse c'erano più possibilità. Io poi ho scelto questa perché non mi piacciono i ruoli standard, no? La donna comprensiva che va a cercare là dove può. Mi piaceva anche l'idea che questi due personaggi partissero con due atteggiamenti opposti e poi venissero ribaltati, capovolti, perché in ognuno di noi, che siamo persone, c'è il maschile e il femminile, e quindi non volevo caratterizzarli all'eccesso, ma laddove Larissa inizia a pararsi dietro questo muro di durezza e di rifiuto, io volevo che ancora ci fosse la sua umanità, che ancora venisse fuori, e viene fuori laddove meno si penserebbe che potrebbe essere, cioè in questo attaccamento così discreto ma profondo nei confronti di Caterina. A un certo punto nel libro si spiega almeno in parte il perché del titolo Le notti blu. Riferendosi a Michele, al padre, scrivi: le notti blu, questo gli ha lasciato suo figlio. Notti insonni in cui farsi del latte caldo che non può nemmeno bere. Le notti blu. Che cosa rappresentavano queste notti blu? Quando Mirko era piccolo era un bimbo insonne e si svegliava e stava sveglio. Quando era bimbo si metteva davanti alla televisione muta per non svegliare i genitori, era già un ragazzino molto responsabile, molto affettuoso nei confronti dei genitori. Poi quando Michele ha scoperto che suo figlio non riusciva a dormire, si puntava alla sveglia e gli teneva compagnia facendogli il latte e miele. E quindi c'è questa conversazione spesso anche muta tra di loro, comunque questo tenersi compagnia che Michele fino ad un certo punto interpreta come un padre che tiene compagnia a suo figlio, ma soltanto dopo molti anni a posteriori capisce che era contrario, era Mirko che gli permetteva di stare con lui, era lui che comunque stava lì, lo aspettava, beveva questo latte e miele anche magari senza averne voglia. E poi le notti blu sono anche quelle del dopo, quando Mirko si è ucciso e Michele a sua volta diventa insonne, un po' per l'età, ma un po' anche per altro. E sono le notti che lui passa in cucina a guardare fuori, a pensare, a ricordare, a stare con la memoria di suo figlio a questo punto, quindi non più con lui.